Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Porororo, poroporopo, poroporopo, oh, porororo, poroporopo, poroporopo, oh. Mi sono chiesto spesso cosa fosse il tempo, se in fondo quando ti amo il mondo non lo sento. Mi sono chiesto spesso, tra una sigaretta e l'altra, quale fosse la ragione perché tu fossi così bugiarda. Come si vive 24 ore su 24 da ipocondriaco? Ha provato a raccontarlo Lorenzo Marone in Inventario di un cuore in allarme, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Lorenzo Marone è uno scrittore che amiamo molto qui al Cacciatore di Libri. Credo di averlo intervistato forse per tutti i suoi romanzi. Ricordo rapidamente i titoli: La tentazione di essere felici, La tristezza, Il sonno leggero, Magari domani resto, Un ragazzo normale e poi Tutto sarà perfetto. Ora invece Lorenzo Marone ci propone non esattamente un romanzo, nel senso che non si tratta di pura fiction. Ha deciso di mettere la sua vita e se stesso non solo qui e lì fra un personaggio inventato e l'altro, ma proprio di mettersi a nudo e di raccontare se stesso e il suo rapporto con l'ipocondria. Lorenzo, tu spieghi inizialmente in questo libro che hai deciso di raccontare perché per gli ipocondriaci è importante, come dire, fare squadra, far parlare e cercare di farsi capire dagli altri. È stata questa la molla quindi che ti ha spinto a scrivere? Beh sì, è stata un po' la... Per certi versi, per fortuna, anche la scrittura per me continua a essere un qualcosa di terapeutico, uno strumento terapeutico. E quindi un anno fa ho sentito l'esigenza di scrivere, di esternare, ecco, questo mio disagio, questo mio malessere con il quale convivo, queste mie paure, le mie ansie, le mie fobie, che tra l'altro avevo rivelato comunque in parte attraverso i miei personaggi, perché i miei personaggi dei romanzi sono comunque, riflettono quello che è il mio sguardo sulla vita, quindi personaggi che faticano in qualche modo a vivere e che però si trovano sempre costretti a dover prendere decisioni, a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, eccetera. Quindi niente, ho sentito l'esigenza di fare questo, ma soprattutto anche perché poi credo nel sentire comune, credo che sia un modo per esorcizzarle, raccontarsi, confessarsi, cercare l'abbraccio di tutti, ecco. E infatti tu proprio all'inizio, a proposito di abbracci, ci arriviamo anche al tuo romanzo, al tuo libro in questo periodo storico particolare. Tu scrivi: penso che condividere le paure possa servire a destabilizzarle. Ecco, a te scrivere questo libro è servito in qualche modo? Bah. Allora sei un vero ipocondriaco, mettiamola così. Sì, questa è la prova provata che sei un vero ipocondriaco. Sì, infatti non credo più nelle cure. È stato un modo per più che altro sfogarmi, nel senso che la psicoterapia è concorde nel ritenere che l'ipocondriaco per guarire non deve parlare con nessuno. Io mi ritengo un ipocondriaco di professione, come dico sempre, e quindi sono consapevole di ciò. Ci sono quelli invece che sono inconsapevoli di esserlo e quindi sono quelli che invece si lamentano di continuo. Fatto sta che io ho fatto un po' il vuoto attorno, nessuno più mi crede. Beh, questo però è tipico esattamente di tutti gli ipocondriaci. Ora noi naturalmente lo raccontiamo un po' col sorriso sulle labbra, perché l'ironia che ti è caratteristica in tutti i tuoi romanzi è anche presente in questo libro. Però l'ipocondria è un disturbo veramente che rovina la vita delle persone. Tu a un certo punto dici che l'ipocondriaco vive con la paura costante. Ecco, non è un bel vivere. No, innanzitutto ti toglie diritti, perché dicevo prima, nessuno ti toglie il diritto all'ascolto, essere ascoltato, essere accolto, ti toglie il diritto a essere compreso. Io sono ormai solo, vado ormai da solo negli studi medici perché nessuno mi accompagna più, e quindi dicevo, per ricollegarmi anche a quello che ho detto prima, ho anche un po' sfruttato il lettore da questo punto di vista. Siccome nessuno mi ascolta, ho detto ora vi impongo, perché tua moglie e i tuoi amici non ti ascoltano più, si capisce da quello che hai scritto. E quindi mi sono servito, fra virgolette, del lettore. A parte la battuta, sì, è un Ma sai, io quello che ho capito in 30 anni è che l'ipocondria, e quello che poi dico anche nel libro, non è in realtà poi paura della morte, ma è paura della vita, cioè è paura di crescere, di paura delle responsabilità, paura della felicità, che è un qualcosa che secondo me accomuna questa società, che è incapace di sentire la felicità, ha paura che la felicità possa essere sempre sottratta. Siamo una società che cerca continuamente la felicità per non sentirla, quindi siamo sempre lì a cercare il progetto che ci renderà felici, il lavoro. E però quando questa felicità si avvicina, appunto, scattano dei meccanismi. Tu lo scrivi benissimo, secondo me, in una frase. Tu dici: l'ipocondria, appunto, non ha nulla a che vedere, non ha nulla a che fare con la paura di morire, ma si ciba del terrore di vivere, della nostra incapacità di vivere tendendo al benessere. Per questo arriva nei piccoli momenti di felicità apparente, perché il suo compito è proprio punirci e non lasciarci coinvolgere dall'abbraccio della vita. Ecco, questa secondo me è un'analisi molto profonda che riguarda ovviamente l'ipocondria, ma anche altri malesseri, diciamo, dell'anima. E più la paura di essere felici, è più in quei momenti lì che si manifesta il disturbo. Sì. Dicevo, secondo me da questo punto di vista siamo tutti ipocondriaci, nel senso siamo tutti incapaci di stare in ascolto, e lo stiamo vedendo poi in questo periodo storico che ci impone di fermarci, e lo facciamo con grande fatica. Perché? Perché abbiamo costruito una giostra che non si deve fermare mai. Perché se si ferma siamo lì, rimaniamo con noi stessi e siamo costretti ad andare a sentire e ad ascoltarci e ad accettare quello che sono le nostre paure, le nostre ansie, le nostre fobie, la nostra incapacità di restare appunto in ascolto. E allora veniamo ad alcune cose, ad alcuni episodi che tu racconti in questo libro. Racconti per esempio di una serie di sedute da uno psicanalista che ti dà da fare degli esercizi anche un po' fantasiosi. Il primo esercizio per esempio è quello di non parlare assolutamente con nessuno delle malattie. Il secondo invece è quello di fare una sorta di autopalpazione, cioè mettersi davanti a uno specchio, osservare il proprio corpo nudo, toccarsi, avere, come dire, familiarità con il proprio corpo. Mi sembra che questi due esercizi non siano andati molto bene. No, è il racconto della mia esperienza con questa terapia breve strategica che, per carità, forse per qualcuno funziona, per te persone. No. Sì, per me insomma non è, perché tende a cercare di eliminare le forme di controllo, perché poi l'ipocondria è anche questo, illudersi di poter controllare le cose, tenere sotto controllo le cose, aumentando però il controllo. Cioè la terapia ti chiede questo, aumentiamo il controllo per cercare di spegnere il tuo bisogno di controllo. E quindi niente, è stata un'esperienza, sì, addirittura siamo arrivati all'autopalpazione. L'ipocondriaco sa benissimo, insomma, palparsi è proprio quanto di peggio possa. L'ipocondriaco si lava con le spugne. Ecco, questo però mi ha stupito, perché tu dici che l'ipocondriaco, per esempio, ha paura dei medici. Ora io, da ex ipocondriaca, lo confesso qui pubblicamente, invece adoro i medici, adoro tutti gli esami diagnostici. E in un altro punto del libro tu dici: ah, come vorrei avere come miglior amico un medico sempre lì a disposizione. Quindi il rapporto con il medico è un po' conflittuale. Mi contraddico. Infatti ti contraddici allora. Sì, ma nella vita in generale. No, in realtà è così. Esistono varie forme anche da questo punto di vista di ipocondria. C'è chi rifugge e chi invece sta sempre lì a cercare il controllo, a cercare la diagnosi. Nuovi esami diagnostici fantasiosi. Sì. Io invece faccio parte di quella branca, tra l'altro più pericolosa, anche perché quelli che cercano di non andarci dal medico, anche se io faccio parte poi di una sottobranca, nel senso di quelli che non ci vanno fino a un certo punto, nel senso che si tormentano per un mesetto, due mesetti, poi alla fine, comunque sempre dal medico vai a finire, pur di spegnere l'ansia che si è. Ecco, noi ribadisco ancora una volta, lo raccontiamo sorridendo, perché l'ironia è la cifra distintiva di Lorenzo Marone anche in questo libro. Non stiamo sottovalutando il disturbo, la malattia e chi naturalmente ne soffre, anche perché insomma tu l'hai dichiarato: io sono ipocondriaco, quindi chi più di te può ridere di questa cosa? Ma io credo sia lo strumento nella vita, cercare di affrontare appunto le difficoltà della vita con il sorriso, con il tono leggero, con il tono lieve, e nella scrittura ancora di più. Insomma, questo non è il lamento di un ipocondriaco, no. È una riflessione, una condivisione, una ricerca, mi piace definirla. È vero, è proprio una ricerca ed è fatta anche, come dicevamo, col sorriso sulle labbra. Ci sono degli episodi veramente appassionanti, divertenti, come quello, ve lo cito, non ve lo racconto perché dovete leggerlo, di quando Lorenzo Marone va a finire in un ospedale a Parigi. Erano solo emorroidi, ma lui chiaramente pensava chissà che cosa. E adesso vi leggo invece un brano perché è molto interessante di questi tempi. Tu scrivi: non sono uno di quelli fissati con la pulizia, che non toccano nulla e si lavano di continuo le mani, che hanno paura di salire su un mezzo pubblico, o quelli che ti offrono una stretta inconsistente e precaria per timore di un presunto contagio, come se fossi portatore di un terrificante virus, quelli che camminano con la mucchina nella tasca, insomma. E ora col coronavirus? Eh già, scritto solo pochi mesi fa, cambia tutto. Dobbiamo aggiungere quest'altra fobia, perché poi tra l'altro non parliamo solo di ipocondria, parliamo di tante altre fobie nel libro, e dovremo coniare anche un termine per la fobia per il coronavirus. Eh sì, è così, era un qualcosa che non mi apparteneva, adesso siamo anche un po' tutti con la mucchina, con i germi, ci laviamo le mani, e lo dicevo prima, l'ipocondria non è paura della morte, è paura della vita, ma soprattutto è anche richiesta di attenzione, è anche richiesta, voglia, di desiderio di essere messo al centro, di essere accolto, di ricevere un abbraccio. Quindi figuratevi un po' in questo periodo nel quale gli abbracci sono vietati. Ecco, sì. Naturalmente nei tuoi libri non manca mai il cane, un cane c'è sempre. Ho detto, ma chissà se l'hai infilato anche in Inventario di un cuore in allarme. Ebbene sì, c'è, compare a pagina 123 la prima volta, quando tu ti preoccupi della tua bassotta e ti domandi se lei è felice. Ti poni delle domande sulla felicità del tuo cane. Perché? Questa è una bella domanda, tra l'altro nessuno ancora aveva mi aveva solleticato su questo. Bah, io, sai, cerco di spiegarlo a modo mio nel libro. Io sono un uomo che ha un conflitto, un rapporto conflittuale ovviamente con la fede, perché sono uno che scettico di natura, uno che sta sempre alla ricerca di risposte, ne trova pochissime. Tra l'altro le ricerche alimentano domande. Però riesco a trovare brillii di luce, brillii di fede, riesco a sentire un qualcosa di più grande nelle piccole cose, che è quello che poi cerco di raccontare sempre nei romanzi. Le mie sono sempre piccole storie, piccoli mondi, cerco di raccontare la vita attraverso le piccole vite, e la poesia, la bellezza è qualcosa di sovrannaturale, di potente. Io lo ritrovo anche nei comportamenti del mio cane, o comunque in tutte quelle forme di vita inconsapevoli che riescono, secondo me, attraverso piccoli gesti, piccole attenzioni, piccoli sguardi, ad aprirti su un qualcosa che è altro. Spero di essere riuscito a sono concetti molto profondi e importanti, meriterebbero molto più tempo per essere approfonditi. Vorrei chiudere ancora un po' sorridendo. Ci sono le scene in cui tu, per esempio, leggi i bugiardini dei farmaci che non andrebbero mai letti. A un certo punto trovi addirittura il bugiardino di un farmaco che ti dice, fra gli effetti collaterali, morte. Ti posso assicurare che anch'io una volta ne ho trovato uno che diceva morte improvvisa, per giunta, quindi a me non so se era consolatorio, dici ok, non soffri, è improvvisa, quindi saluta sì. Tutti. E poi c'è anche sono anche i momenti di tenerezza, per esempio quando rifletti sul fatto che sei diventato padre a 40 anni, però l'ipocondria da questo punto di vista non cambia, anzi le ansie crescono. Sì. Avevo detto dobbiamo ridere, però sì, quando stavo per diventare padre mi dissi, ah, che bello, finalmente non avrò più il tempo di dedicarmi alle mie paturnie. E invece aumenta tutto, mi sono accorto poi che purtroppo aumenta, perché poi le ansie le passi, le trasformi, si accumulano su tuo figlio e anche su te stesso rispetto a tuo figlio. E beh, questo ovviamente è un qualcosa che riguarda tutti i genitori, naturalmente, non solo quell'ipocondriaci. Però tu poi giustamente concludi che alla fine tutto questo, tutta quest'ansia comunque è ripagata dal sorriso, comunque dall'idea di avere un figlio. Beh sì, dicevo, c'è un mio amico che qualche anno fa mi disse una cosa molto bella, disse, guarda, è un padre di due bambine bellissime, e disse, se dovessi fare un elenco dei pro e contro del diventare genitore, la lista dei contro sarebbe infinita, mentre quella dei pro conterrebbe una sola parola, ma talmente inattaccabile, talmente grande, che è amore, da cancellare tutto il resto. E quindi sì, insomma, è talmente un'esperienza forte, un amore così, un'energia così grande, che poi tutte le difficoltà si annullano, ma questo non sono io ovviamente a dirlo. Grazie allora a Lorenzo Marone, ora in libreria con Inventario di un cuore in allarme. Mai libro fu più azzeccato per questo momento storico, pubblicato da Einaudi, Stile Libero Big. Grazie Lorenzo. Grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. James Rollins è uno degli scrittori americani più famosi al mondo, considerato un po' un riferimento per i romanzi d'avventura, insieme a Clive Cussler, che purtroppo è scomparso proprio il 24 febbraio scorso, e a Wilbur Smith. Dopo aver fatto per anni il veterinario, si è dedicato alle sue passioni, cioè la speleologia e le immersioni subacquee, e naturalmente la scrittura. James Rollins è noto per la serie dedicata alla Sigma Force, ossia la divisione segreta del Dipartimento della Difesa americano, creata appunto dalla mente dello scrittore, in cui ci sono dei tecnici specializzati che hanno il compito di difendere gli Stati Uniti dalle minacce tecnologiche. E infatti in tutti i romanzi di Rollins con la Sigma Force c'è sempre un mix fra presente ipertecnologico ed episodi accaduti nel passato. Nel romanzo Il segreto dell'inquisitore, pubblicato da Editrice Nord con la traduzione di Paolo Falcone, è un romanzo del 2019, ma per fortuna i libri non invecchiano mai, si parla di inquisizione di forme di intelligenza artificiale che possono sfuggire al controllo degli esseri umani. Veniamo a qualche elemento di trama. Gray e Monk sono agenti della Sigma Force e sono anche molto amici. Stanno andando a casa di Gray per festeggiare il Natale. Aprono la porta e si trovano davanti una scena piuttosto inquietante. Catherine, la moglie di Monk, è a terra in gravi condizioni, mentre la compagna di Gray, incinta, è scomparsa insieme alle due bimbe degli amici. Col passare delle ore il rapimento sembra essere collegato ad un raid avvenuto 4 giorni prima in un laboratorio dell'Università di Coimbra in Portogallo, dove un commando armato ha ucciso un gruppo di studiose riunite per effettuare un importante esperimento. Insomma, lo capite che le trame di James Rollins sono piuttosto ingarbugliate e intrecciate, ma tutto naturalmente ha un senso. E allora sentiamo direttamente da James Rollins che cos'è la Sigma Force. The Sigma Force is there a group of special forces soldiers. Il Sigma Force è un gruppo di soldati molto abili di un corpo speciale che però sono stati cacciati dall'esercito. Tuttavia, poi vengono reclutati dalla DARPA, l'agenzia americana che si occupa di ricerca e sviluppo nell'ambito della difesa. Diciamo che potremmo definirli come degli scienziati con la pistola e si occupano di sventare tutte le minacce che incombono sul mondo. Ricordi esattamente il momento in cui ti è venuto in mente di creare la Sigma Force e renderla protagonista dei tuoi romanzi? When Sigma Force first appeared, they were just supporting characters in a different novel. Quando ho creato per la prima volta la Sigma Force, si trattava di personaggi a supporto di altri protagonisti di un altro romanzo. Poi però questo mi è piaciuto così tanto che ho cominciato a crearci intorno una serie di romanzi. Inizialmente ero riluttante a creare un team. Poi però mi sono accorto del vantaggio di farlo. In realtà è molto difficile, quando crei un protagonista, metterlo in una situazione di pericolo e rischiare che muoia. Per cui nel romanzo successivo non potresti più averlo come protagonista. Invece con un team questo non accade, perché se decidi di far sparire qualcuno del team, puoi sempre sostituirlo. Sai che in questo momento i tuoi fan stanno tremando perché magari qualcuno è più affezionato a Gray, qualcuno a Monk, insomma, questo vuol dire che qualcuno di loro potrebbe prima o poi morire. And that's the fun of writing this story. I think that's why people are engaged. Ma è proprio questo il divertimento della scrittura. Decidere di uccidere un personaggio. Lo trovo divertente. Anche in questo libro, uno dei personaggi della Sigma Force, la moglie di Monk, Cat, si trova in serio pericolo. È in coma. Non vi svelerò come andrà a finire, ma ecco, l'ho messa in una situazione di grave pericolo. Veniamo alla trama allora di Il segreto dell'inquisitore. Come sempre c'è un mix fra passato molto remoto e tempi presenti. Il passato è il 1611 in Spagna. C'è un uomo, padre Ibarra, che sta per essere messo al rogo e prima di salire appunto sul rogo consegna uno strano oggetto all'inquisitore. Potremmo definirlo un dito, ma non è una reliquia, perché è qualcosa fatta con cavi, fili di ferro, insomma qualcosa di strano. Cosa ci puoi dire su questa strana, come dire, su questo strano lascito? Exactly. I'm always looking for a historical mystery, you know, a piece of history ends in a question mark, something I can maybe solve within the pages of a novel. Mi piace molto scavare nella storia per trovare dei misteri non ancora risolti e ai quali magari posso dare delle risposte nei miei libri. L'Inquisizione è un periodo sicuramente molto interessante. Ciò che molti non sanno è che l'Inquisizione è stata la prima istituzione europea a bandire il rogo delle streghe, cosa che stupisce in effetti. Ho anche scoperto il culto della Santa Colomba, che è la santa protettrice delle streghe. Sembra un po' una contraddizione che la Chiesa Cattolica abbia istituito una santa patrona delle streghe. Invece è così. È stato durante i miei viaggi, andando per esempio in Spagna, che ho scoperto questi segreti che poi ho esplorato nel libro. Some secrets involving the Spanish Inquisition, secrets that are put into this book. Ecco, a proposito quindi delle cose che studi prima di scrivere un romanzo, quanto sono veri, reali, riferimenti storici della parte storica dei tuoi romanzi? Almost a fair amount of the book is based on historical fact, and at the end of all my books I have sort of a what's true, what's not section where I do sort of lay out how much of the story is based on fact and if and. Gran parte dei miei romanzi è basata su fatti storici e alla fine del libro includo una sezione in cui distinguo ciò che è vero e ciò che è finzione. Credo che per i lettori sia importante sapere su cosa si è basato l'autore, ma mi piace anche lasciare delle questioni aperte per i lettori, lasciare delle briciole che loro possono seguire in qualche modo. È una buona cosa, perché se incuriosisco i miei lettori a fare ricerche su Google, significa che ho fatto bene, che ho fatto un buon lavoro. You know, if I'm engaging my readers enough to make them curious enough to Google something, then I've done my job right. Torniamo appunto a questo romanzo. Il tempo presente è rappresentato da due scenari molto diversi. Da una parte Coimbra, una città portoghese, dall'altra invece siamo appunto negli Stati Uniti con il personaggio di Gray Pearce. Non possiamo andare troppo nel dettaglio, ma diciamo che Gray Pearce si troverà ad affrontare una situazione molto molto problematica per lui. Qualche elemento possiamo darlo? Well, the book starts out with Gray coming home Christmas Eve and discovering that his home has been ransacked. Gray all'inizio del libro torna a casa, è la vigilia di Natale, e la trova completamente sconquassata. Qualcuno ha fatto irruzione. La moglie del suo miglior amico è in coma. La sua ragazza, che è incinta, è scomparsa, così come le due bambine. Comincia quindi a cercare i responsabili e si imbatte in questa giovane ricercatrice esperta di intelligenza artificiale, Mara. E da lì inizia tutto il mistero. Nefarious group has tried to obtain and she's on the run and Gray must help her find her and secure her research. Dicevamo prima che i tuoi romanzi sono sempre un mix fra la storia e il tempo presente. È sempre molto presente l'aspetto della tecnologia, proprio perché Sigma Force basa una gran parte dell'attività proprio sulle nuove tecnologie. Anche in questo tu ti devi documentare prima di scrivere un romanzo? You know, I had 22 different researchers in the AI industry that were willing to talk to me, from executives at Google's DeepMind program to some researchers at Stanford University. Sì, faccio ricerche. Ho parlato con 22 scienziati a proposito di intelligenza artificiale. Ho parlato con scienziati di Google, di DeepMind, dell'Università di Stanford, dell'Università spagnola che cito nel libro. Sicuramente per me è importante restare aggiornato su ciò che scrivo, perché può passare molto tempo tra la scrittura e il momento della pubblicazione. Devo essere certo che quello che sarà pubblicato sia fresco e aggiornato. Ecco perché chiedo spesso agli scienziati di non parlarmi di quello che hanno scritto, dei loro articoli, ma di quello a cui stanno lavorando. So that when I write a novel, it does have that feeling that it's, you know, right, it's current, it's not behind the times by the time the book is published. Tu hai venduto milioni di copie nel mondo con i tuoi romanzi, con questo particolarissimo mix appunto di romanzo storico, thriller, romanzo d'avventura che si intreccia appunto con il presente. Quali sono le due o tre regole che tu ti sei dato e che insomma quelle due o tre cose che non mancano mai nei tuoi romanzi? Quindi insomma vogliamo sapere un po' il segreto del successo per intenderci. Well, one, as I mentioned before, was I'm always looking for that bit of history that ends in a question mark, a historical mystery I can solve. I tre ingredienti per me sono qualche evento accaduto nella storia che ha lasciato un punto di domanda, una questione irrisolta, una sfida da affrontare a livello scientifico e un luogo esotico nel senso di misterioso. Un luogo inaccessibile, una sorta di ingresso solo per gli addetti ai lavori. Mi piace portare i miei lettori al di là di quella porta, che sia un'università o un sito archeologico. So I like to take my readers by the hand and take them to these exotic places and mix science and history together. So those are the three elements I'm always looking for, that bit of science, that bit of history and some type of unusual location to take the readers. Un'ultima curiosità. Le trame dei tuoi romanzi sono in genere molto articolate, ovviamente perché c'è una parte thriller, poi c'è il passato che si intreccia col presente, poi insomma tutto deve confluire in un senso. Ma ti capita mai mentre scrivi un romanzo di fermarti e chiederti, beh, adesso come vado avanti? Perché magari hai intricato un po' troppo la storia. Yes, yeah, so in structuring a big complex novel like these, you know, I'm juggling a lot of balls. There's and they have to land just where I need them to land. And sicuramente sono un po' un giocoliere. Apro tanti percorsi quando inizio a scrivere. Perciò mi capita sempre di perdermi. Ho scritto 35 romanzi e in ognuno di questi, nel mezzo della scrittura, mi dico «Basta, mi sono perso. Ora vado dal mio editore e gli dico che non se ne farà più nulla». In realtà poi ogni volta continuo a scrivere e le cose si risolvono da sole. But then I keep writing and eventually the balls land just where I want them to land and everything's fine. Quindi tu non hai fin dal principio la struttura esatta di, insomma, all'inizio della stesura del romanzo tu sai come andrà a finire, sì, immagino di sì. I just have a very skeletal outline. I know the beginning, I know the end, and I know generally three. In realtà, prima di cominciare, ho in mente lo scheletro, l'ossatura del romanzo. So l'inizio. So la fine, so due o tre punti, ma non più di questo. Altrimenti, se conoscessi troppi dettagli, perderei il gusto e l'eccitazione durante la scrittura. Insomma, mi annoierei. E i lettori sentono se un autore è annoiato oppure prova entusiasmo mentre scrive. Mi diverto proprio perché non conosco tutti i dettagli all'inizio. One way I can keep that sense of excitement is that I'm excited about the story because I don't necessarily know exactly how it's going to go. E questo era James Rollins che ci ha parlato del romanzo Il segreto dell'inquisitore pubblicato in Italia da Editrice Nord. E anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete riascoltare i podcast delle puntate del Cacciatore dei Libri potete andare su radio24.it, cliccare nella sezione programmi e cercare il Cacciatore di Libri. Vi ricordo anche che potete sempre essere aggiornati su quello che stiamo preparando per voi attraverso i social, in particolar modo c'è Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, ma siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.